9 in punto, la versione di Oscar. Of everything that stands the end, no safety or surprise the end. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 19 di marzo, lo sapete, San Giuseppe, la festa del papà, insomma una figura di autorità, di riferimento, un tempo si sarebbe detto, poi è entrata in crisi e apposta ho scelto questa giornata un po' particolare, di un mito travolto di fronte alla sua incapacità di esercitare nella media e con tutte le generalizzazioni, prendetela come una frase ovviamente non apolitica che non vale per tutti, di scegliere questo giorno proprio per fare una riflessione un po' di tono, deliberatamente diverso al solito, meno alto, meno disinvolto, meno pronto a esprimere giudizi taglienti come faccio talvolta, perché abbiamo dedicato di prenderci questa puntata per riflettere insieme ad alcuni che hanno sollevato questo tema particolare delicato, ed è il tema di coloro che per la crisi si levano la vita e si suicidano. Certo, imprenditori, anzi la novità è stata che ci siano decine e decine di imprenditori che l'abbiano fatto nei mesi alle nostre spalle, ma non solo imprenditori, lavoratori, dipendenti, autonomi che hanno chiuso. Ecco, il fenomeno è diventato un fenomeno di cui è facile far titolo quando succede, poi più difficile assumerlo in una linea ininterrotta di eventi per tentare di riflettere e di dargli una dimensione e anche di capire che cosa sia più giusto fare, se al di là del titolo e del colore giornalistico l'indomani, che lascia poi a coloro che sopravvivono, ai familiari, ai dipendenti, ai soci delle aziende, alle prese con le conseguenze, non sia il caso invece di tirarsi la testa e tirarsi però sulle maniche per capire che cosa fare per chi resta, per impedire a chi avesse queste idee di portarle a termine, a compimento, per esprimere solidarietà, e solidarietà non a parole ma concreta, con i fatti, con magari strumenti mutualistici che possano intervenire per coloro che sono nella condizione oramai di non avere più merito di credito, o sono nella condizione di avere le tasche vuote per il pagamento di tasse e contributi che sono in aumento per quello che si prende lo Stato, o sono in condizioni magari di non poter più pagare gli stipendi di dipendenti e collaboratori che hanno protratto per lungo tempo pur di non venir meno a questo dovere, e poi magari è anche solo il fatto di dirlo ai familiari, ai dipendenti, ai collaboratori che gli fa cadere il mondo addosso e gli fa levare quella linea di continuità ideale, che ciò senza di cui un uomo non è onore e non è vita, cioè la spina dorsale. Ecco, allora il tema di oggi è questo, quindi la mia domanda è: diteci come la pensate, telefonate 349-238-6666 per i messaggi sms, lo sapete, 800-24-0024, perché oltre alle testimonianze e alle opinioni di chi si è inventato qualche cosa, io voglio sentire come la pensate voi, e se pensate come io penso, purtroppo, che il morso fiscale dello Stato che vedremo a marzo nelle buste paga per le addizionali IPEF e poi con l'IMU e così via sarà tale che molto difficilmente quest'anno potremo considerarlo davvero un anno migliore, anzi sarà peggiore rispetto agli anni precedenti. Lo dico con tutto il più profondo rispetto verso questo governo, quello che sta facendo, però sia ben chiaro, io non mi ci ritrovo in questi tamburi sonanti che dicono viva viva, tutto è finito, viva la gran serietà, viva le grandi riforme. Sì, sì, le grandi riforme, se sono come le liberalizzazioni, sono annunci mediatici internazionali. Io avrei voluto molto di più. Anche su questo del lavoro ci sono parecchie cose che non mi convincono. Penso che sia ragionevole parlarne senza finti entusiasmi. C'è troppo entusiasmo, troppi tamburi e troppe trombe sulla stampa italiana, sui media italiani. Temo invece che poi la gente che si toglie la vita faccia il conto con una realtà molto diversa dal trionfalismo che più dei miei colleghi, per una ragione o per l'altra, non spetta a me giudicare, alimentano in questi giorni. Nel frattempo, ultimo minuto, quello dedicato all'informazione europea prima di cominciare, ed è il motivo per cui teniamo i Doors, mi limito ad alcune riferimenti di quello che è venuto lo scorso fine settimana appena finito sulla stampa internazionale. Primo, vediamo i confronti elettorali, quello francese che si avvicina molto importante, La novità è che adesso è Hollande che scende nei sondaggi, il candidato del socialista, perché anche su di lui c'è l'effetto del concorrente a sinistra, perché Mélenchon sta salendo nei sondaggi, quello pubblicato ieri dal Journal de Dimanche diceva, vedeva Sarkozy al 27,5% al primo turno, oramai scavalcare stabilmente Hollande per un punto e mezzo in meno, ma il candidato della sinistra radicale Mélenchon appunto al 10,5% oramai accreditato. Seconda cosa, non si è capito molto bene secondo me dai giornali italiani, ma nella realtà quelli francesi come Le Figaro hanno sottolineato che l'incontro comune a favore di Hollande insieme agli altri capi dei partiti di sinistra europeo, nella realtà la ciccia vera, la sostanza, scrive Le Figaro, è che non si è trovato l'accordo per un patto comune volto a rinegoziare il fiscal compact, cioè l'accordo di rigore europeo sottoscritto da 25 paesi in caso di vittoria di Hollande. Hollande voleva annunciarlo a nome di tutti gli altri partiti socialisti e di sinistra, e Figaro spiegava come anche Pierluigi Bersani abbia detto no, ha detto andiamoci piano. Ecco, secondo me non si era capito abbastanza questo sulla stampa italiana. Der Spiegel nel fine settimana aveva dei divertentissimi siparietti di Angela Merkel molto arrabbiata con Sarkozy, che continua a cambiare idea se si debba prevedere una presenza almeno una finale in campagna elettorale del cancelliere tedesco al suo fianco, e c'erano dei gossip abbastanza simili a quelli un tempo ricorrenti sulla stampa internazionale italiana tra Merkel e Berlusconi. E prime reazioni di siti di grandi giornali europei al sondaggio domenicale comparso sulla stampa italiana, che attribuiva al premier italiano Mario Monti un partito, il sondaggio di Repubblica, che attribuiva a Mario Monti un partito del 24%. Il più delle prime cose che ho visto stamattina presto erano ispirate a un certo scetticismo, per così dire, scetticismo sul fatto di considerare che Monti davvero potesse mai candidarsi. Sapete benissimo che esclude sempre di farlo, lo ha fatto anche con grande chiarezza all'intervento che ha tenuto sabato mattina al convegno del Biennale di Confindustria del centro studi, e mi fermo qua. Allora, sul punto degli imprenditori e dei lavoratori suicidi, sapete che gli solo imprenditori suicidi del nord-est in questi due anni e mezzo di crisi sono stati oltre 50, sapete, perché ne parlai il giorno stesso, che Giuseppe Bertolussi della CGIA di Mestre lanciò questa idea, subito mi dissi favorevole, l'avevo appena letto quando uscì la settimana scorsa questa proposta, quello di un vero e proprio fondo di solidarietà per evitare altri suicidi tra i piccoli imprenditori, un fondo di solidarietà per chi, in parole povere, oramai privo del merito di credito e nell'impossibilità di avere altri figli o affidamenti o impieghi bancari, non sappia più a chi rivolgersi. Tentativo è di mettere in piedi uno strumento di ultima istanza per evitare che altrimenti la disperazione prevalga. Nel frattempo, oltre al fatto che si sono aggiunte altri esempi di questo tipo, ci sono state altre iniziative. Un'iniziativa è quella che è nata nell'ambito, si chiama Terraferma, ecco, nell'ambito dell'iniziativa di rete Imprese che Resistono, ecco. E Imprese che Resistono hanno fatto nascere questo Terraferma, che coordina tutto il territorio nazionale psicologi specializzati a sostegno di imprenditori e lavoratori in difficoltà. È Massimo Mazzucchelli a coordinarla e a venire nei giorni alle nostre spalle a dedicato diversi approfondimenti a questo tema, e diversi poi sono stati gli articoli Corriere della Sera e soprattutto gli organi di informazione del Nord-Est che si sono occupate di questa vicenda. Io voglio chiedere a voi ascoltatori se non sia il caso davvero di pensare a un fondo, con la strada di mettere denaro pubblico per darlo agli imprenditori che vogliono suicidarsi, come qualcuno capì quel giorno. Io spiegai subito in diretta. E un'altra cosa, si tratta di pensare a un'iniziativa che consenta di avere una istanza superiore rispetto a chi ha perso il merito di credito, almeno di interlocuzione, ecco, di interlocuzione che segnali un livello di tensione personale, psicologica, per il solo fatto di interloquire con una cosa di quel genere, che ci consenta di ragionare, di far ragionare, invece che registrare il fatto che di fronte all'onore, al buon nome che cade, di fronte a ciò che tiene dritto un uomo e che viene meno, egli decida di mettere fine alla propria vita. Allora, a me sembra un'idea giusta messa in questi termini. Ovviamente ciascuno direbbe sì, ma chi ci mette i soldi? Perché se non ha il merito di credito sono soldi buttati. Allora ho deciso di chiamare oggi appunto qui Giuseppe Bortolussi, che è stato il primo a lanciare l'idea, il segretario della CGIL di Mestre. Buongiorno, grazie Giuseppe, sei qua? Buongiorno a voi. E intanto è con noi anche Stefano Zanatta, presidente di Confartigianato di Asolo Montebelluna. Buongiorno presidente Zanatta. Buongiorno a tutti voi. Bortolussi, ci spieghi come secondo te può funzionare questa idea? Guarda, il discorso è molto semplice. Esiste già un qualcosa di simile che riguarda la lotta all'usura. Tra l'altro ha anche funzionato abbastanza bene. Le risorse non sono poi così tante, tant'è vero che io parlo di qualche decina di milioni a livello nazionale. Ora, è una rete di sicurezza che permetterebbe a molti imprenditori che si trovano in difficoltà di non cadere nelle mani degli usurai, ma anche di non arrivare al gesto estremo, sapendo che c'è qualcosa di straordinario, perché vedi, è la situazione che è straordinaria e non si può rispondere a questa situazione straordinaria che ha portato nel Veneto a decine di suicidi con i mezzi normali. I tempi in Italia sono una variabile ormai indipendente, invece questa gente ha bisogno di essere ascoltata, ha bisogno di risorse, ha bisogno di sapere che qualcosa magari gli può essere dato. Allora vedi, ci sono le nostre associazioni, per esempio di categoria, che assieme hanno i consorzi fidi, ma questi ce li hanno gli agricoltori, ce li hanno i commercianti, ce li hanno gli artigiani. È una rete che è solida, che è conosciuta, che sa il suo mestiere, ha dei professionisti a cui magari in questo caso, trattandosi di casi speciali, perché devi capire una cosa, quando tu lanci un numero verde o quando tu dici che c'è questa possibilità, da te viene tutto e di tutto, cioè devi poi sceverare quelli che sono i casi veri dagli altri, perché certo, anche quando parliamo di suicidi, attenzione, non sono tutti dovuti al fatto che l'impresa va male o che ci sono problemi di pagamento, che lo Stato non ti paga, c'è anche chi gioca, c'è anche chi non fa bene il suo mestiere, c'è anche chi non ha fatto certo l'imprenditore per vocazione, quindi poi non puoi dare i soldi a tutti, questo per rispetto dei soldi ma anche per rispetto di chi ne ha veramente bisogno. E allora questo, noi abbiamo dei professionisti seri che sanno fare bene il loro lavoro, che si sanno tra l'altro rapportare con le banche, sono quelli che magari ottengono credito quando la situazione anche è disperata. E poi dico, questi ci sanno trattare con le banche, se la copertura, grazie a qualche decina di milioni in più a livello nazionale, c'è la copertura, tu puoi dare garanzie all'80 e anche magari al 100%. Certo, c'è quella fase che viene prima di sceverare, cioè di dividere quello che è buono da quello che è cattivo. Uno che è disperato, mi spiego, ha bisogno di appoggiarsi a qualcosa, quindi benvengano i numeri verdi, benvenga tutto, però poi alla conclusione uno ha bisogno dei soldi. E questo sistema, secondo me, tra l'altro ha una grossa caratteristica. Se qualcuno si chiede, ma sono soldi pubblici? Sì, sono soldi pagati soprattutto dalle imprese, perché vedete c'è un discorso che negli enti locali a livello di comune, di provincia e di regione dovrebbero esserci dei fondi che sono alimentati dalle tasse che pagano gli imprenditori. Per esempio la vecchia ICI, il 65% non lo pagavano i cittadini, pagavano i piccoli imprenditori con le loro botteghe, e di solito nelle anche amministrazioni comunali è previsto che ci siano dei fondi per la crescita dell'impresa, per l'aiuto all'impresa. Bene, una parte di questi potrebbero essere dirottati in maniera da far fronte a questa esigenza che è estrema, che è straordinaria, E dico anche una cosa, non si preoccupi la gente dello spreco che verrebbe da questo secondo qualcuno, non ci sono sprechi. Io ho visto che anche nei fondi antiusura, quando un piccolo imprenditore viene aiutato, di solito restituisce i suoi soldi, perché il tasso di insolvenza per le microimprese è bassissimo, è dello 0, qualcosa, quindi anche chi è in difficoltà, se viene aiutato, trova il modo di essere riconoscente e di restituire, quindi non sarebbe uno spreco di denaro pubblico, sarebbe restituire alle imprese parte di quello che hanno pagato, sarebbe aiutare, perché l'effetto positivo non sarebbe solo per chi ha estremo bisogno, ma anche per gli altri, che saprebbero che c'è una rete di sicurezza, che in caso di bisogno qualcuno ti ascolta, ma soprattutto ti dà una mano. Per cui io, Oscar, ti ringrazio particolarmente per il fatto che tu dedichi una trasmissione a questa cosa, perché altrimenti questa gente si sente sola e abbandonata, e uno degli effetti per cui si arriva all'estremo gesto è proprio la solitudine, cioè un paese dove fare impresa è più difficile che in altri, un paese dove si crea ricchezza, e ricordo a margine che il 63% dei nuovi posti di lavoro ogni anno li crea l'impresa di sotto dei 20, ma in Europa, perché uno dice ma l'Italia ha un sistema produttivo piccolo, brutto, sporco e cattivo, e in Europa che quelli al di sotto dei 10 creano il 58% dei nuovi posti di lavoro. E allora ti concludo con lo Small Business Act. Lo Small Business Act, che è una norma europea, in Italia nemmeno, sì, anche se la si recepisce, anche nemmeno se ne parla, non la conosce praticamente nessuno, parla di una cosa importantissima, dice che bisogna creare l'atmosfera, la cultura adeguata a fare impresa, perché il futuro dell'occupazione, del benessere è legata all'impresa, non all'intervento dello Stato, altre cose, e queste piccole imprese avrebbero bisogno di pochissimo, costano molto meno delle grandi imprese, queste non hanno mai avuto grandi aiuti di Stato, come sappiamo invece essere avvenuto per le grandi imprese che poi magari hanno chiuso, sono fallite o hanno portato il lavoro all'estero. Quindi io ti ringrazio particolarmente, perché il tuo è un gesto di attenzione che raramente si trova. Hai detto bene, troppi tamburi, troppe trombe, e magari si guardano le cose alla moda e non ai problemi veri, come questo, perché vedi, capita nel Veneto, una terra dove l'economia tira ancora, la disoccupazione è al di sotto di quella tedesca, dove si esporta, ancora si vince esportando su mercati nuovi, dove le cose non vanno male, ma se succede in Veneto potrà succedere nel resto del paese. Ecco che risolvere il problema adesso è risolverlo probabilmente per tutte le piccole imprese italiane. E io infatti, proprio condividendo ciò che nel cuore e con la testa ci spinge a fare ragionamenti come questo di Bortolussi, ricordo a tutti che gli ultimi due episodi, gli ultimi due suicidi che sono avvenuti, è stato un elettricista di Sanremo la scorsa settimana di 47 anni che si è suicidato sparandosi con una pistola, lui era stato licenziato, quindi in questo caso stiamo parlando di un lavoratore dipendente, e poi in un comune vicino a Firenze invece un imprenditore di 64 anni che si è impiccato all'interno del capannone della sua azienda perché era scoperto, aveva dei buffi ed era finito anche, pare, in brutte mani, esattamente per evitare ciò. L'idea di Bortolussi, secondo me, vale la pena di essere presa in considerazione. Sono pochi milioni, ma il problema è dare un'interlocuzione. Ciò che noi non vogliamo, a tutti coloro che sono in ascolto, ripeto, siate piccoli imprenditori, siate lavoratori dipendenti, e che voi non pensiate che non c'è un numero di telefono in cui c'è qualcuno che vi deve ascoltare. A costo di telefonare qua, anche se la radio di Confindustria immagino non sia quello che vi può dare la migliore soddisfazione, però ogni tanto bisogna sapere e dirlo concretamente, che non bisogna lasciare sola la gente che va nei guai perché non sa più come tenere in piedi la propria baracca. Poi a me tutto questo mi fa arrabbiare molto di più, perché invece vedo le trombe, i tamburi per tutte queste riforme eccetera, e dopodiché chi ancora una volta, come Bortolussi, come me, come Luca Ricolfi, prego tutti, leggete l'editoriale di Luca Ricolfi oggi sulla Stampa, così capirete meglio il grido di dolore di chi la pensa come noi, noi che continuiamo a ripetere che sì, benissimo, le liberalizzazioni poi abortite in Parlamento, sì, benissimo, la riforma del mercato del lavoro, perfetto, speriamo che vada, eccetera, eccetera. Il problema è che però ciò che ha l'incidenza più diretta per far ripartire l'economia sarebbero i tagli alle imposte sul lavoro e impresa, contestuali a tagli di spesa veri e profondi come fatti da tutti i grandi paesi europei che hanno riformato in profondità e sono ripartiti nel pre-crisi, si trattasse della Svezia, della Polonia come della Germania. Ebbene, su questo versante chi la pensa come Bortolussi, chi la pensa come me, chi la pensa come Luca Ricolfi, leggete, ripeto, oggi sulla Stampa, è come se fosse su Marte, nessuno ci dà più retta, la politica si applaude da sola, PD e PDL, perché ha trovato l'escamotage per risolvere il suo problema. E però tagli alla spesa e fisco in meno sono spariti dall'agenda nazionale e tutti inneggiano al fatto che invece l'Italia sarebbe diventato il modello europeo. Di che? Dove? Quando? Di che cavolo stiamo parlando, amici? Di che cosa in concreto? Perché dopo aver subito per tanti anni la mistificazione del governo precedente, e ci metto anche un bel po' mia di responsabilità, bisogna essere più tosti e prima, io per primo mi autocritico, adesso riabbassiamo la testa sotto la sabbia con altrettanta cecità, senza paragonare, ripeto, il livello di chi è al governo. Stiamo parlando di persone assolutamente autorevoli che hanno fatto una straordinaria operazione di riconquista di credibilità d'Italia nel mondo, però il problema è che a questi livelli crescenti di pretese dello Stato l'economia non può e non ripartirà con una spesa pubblica che è raddoppiata in 30 anni, che dall'inizio degli anni 80 ha avuto un incremento in termini reali del 105% e che non è ferma. Leggere, come ho letto ieri sul giornale, che la nuova delega fiscale del governo abbandona l'idea delle tre aliquote, di cui quella sulle persone fisiche doveva scendere fino al 40%, poi, non sto parlando del 33%, l'abbandona perché è impensabile e invece semplicemente parla solo di razionalizzazioni dell'imposta sull'impresa con l'IRI, questo solo fatto che si chiami IRI mi preoccupa molto, e senza che nessuno dicesse una sola parola sul fatto che deve essere invece l'esercizio della delega fiscale a consentire di snellire deduzioni, detrazioni eccetera, ma a concentrare il beneficio sul lavoro, impresa e famiglia, io mi sono sentito un marziano. Leggete Luca Ricolfi, leggete tutto ciò che faccio già di Mestre su questa cosa e dateci retta, forse sono gli inascoltati quelli che dovrebbero essere un po' più ascoltati per impedire che altra gente si appenda alle travi o si butti di sotto. Zanatta, appena finisce la pubblicità, ricominciamo con lei. Eccoci qua, tornati in studio e con noi appunto Stefano Zanatta, che è il presidente di Confartigianato Asola Montebelluna, e proprio ad Asola Montebelluna la sua associazione alla fine di febbraio, stiamo parlando vicino Treviso, ha lanciato un'iniziativa volta esattamente al fine di evitare ciò di cui parliamo oggi, un progetto che si chiama Life Auxilium. Di che si tratta, presidente Zanatta? Sì, grazie innanzitutto per l'opportunità di spiegare un attimo che cos'è questa iniziativa, perché qualcuno dice uno sportello anti-suicidi e io non vorrei definirlo così, anche perché mi sembra un po' riduttivo rispetto a ciò che vogliamo fare. Allora, la storia parte ancora l'anno scorso e noi, vedendo alcuni nostri imprenditori molto preoccupati sulla situazione attuale di crisi, volevamo appunto capire al loro interno come vedevano questa situazione, ossia come la percepivano. Quindi in tempi non recenti, quindi abbiamo interessato uno studio di psicologi per appunto che facesse una verifica interna. Abbiamo preso a campione, senza vedere l'età o la tipologia di lavoro o se erano uomini o donne, come appunto percepivano questa sensazione. Ciò che mi è stato detto è stato molto molto molto, per così dire, vario e strano, ossia da una parte c'era la parte, diciamo, per così dire, più positiva della cosa, che vedeva nella crisi un qualche cosa che poteva creare nuove idee, poteva dare un qualche cosa in più rispetto a quello che avevamo avuto finora, quindi poteva essere anche un fattore stimolante per il futuro, progettare prodotti nuovi, materiali nuovi, tipologie diverse di lavoro, quindi l'innovazione. mentre dall'altra parte c'era chi, non avendo mai avuto problemi di sorta nel proprio lavoro e quindi avendo sempre cavalcato la fortuna, per così dire, si vedeva tutto un tratto, come diceva lei all'inizio, cadesse il mondo addosso. E proprio su questi noi abbiamo iniziato a cercare di capire e spiegare anche che proprio non era così. E poi, fatta questa appunto indagine, abbiamo presentato le analisi e abbiamo avuto sollecitudine da parte locali, associazioni e altro per fare qualche cosa. Voglio dire una cosa, allora, l'associazione di categoria si occupa di fare e di seguire le imprese in questo modo. Oggi dobbiamo seguirle anche in questa fase negativa, ma negativa anche a livello psicologico da parte di molti imprenditori, perché quando parliamo di imprenditori parliamo di uomini e donne, quindi soggetti veri. E allora ci siamo appunto detti cosa possiamo fare e nasce questa idea, ma questa idea, siamo detti, non possiamo portarla avanti noi soli, perché siamo associazioni di categoria, abbiamo una bandiera, si possono confondere le cose. Quindi c'è chi ci può dire che la facciamo per magari metterci in mostra, per suonare i cosiddetti tamburi che si sono sentiti prima, e quindi il nostro pensiero cosa è stato? Di coinvolgere qualcuno a livello locale. Quindi prima di tutto abbiamo pensato alla Caritas, perché la Caritas già operava per quanto riguarda il microcredito qui in provincia di Treviso, quindi con personale volontario che in qualche modo, facendo una rete, percepivano gli umori di molti micro imprenditori proprio sull'astrico ormai, che non avevano più niente e in qualche modo però dovevano tirare avanti. Quindi è nata questa iniziativa da parte loro sul microcredito. Ci siamo incontrati col direttore della Caritas, che è Don Davide Schiavon di Treviso, e quindi loro ci hanno detto: noi partiamo con questa iniziativa che era appunto quella del telefono per il numero verde per avere i contatti, perché se qualcuno ha bisogno si può contattare, vediamo cosa si può fare. E noi abbiamo pensato di fare in qualche modo lo stesso, non in contrapposizione a loro ma assieme a loro, e abbiamo coinvolto su questo progetto anche l'ULS locale nostra, l'ULS numero 8 di Asola, Montebellone e Castelfranco, che è un importante bacino ad alta imprenditorialità, perché lo sappiamo benissimo, qua ci sono tantissime imprese, 1, 8, 9, 10 abitanti, dipende poi dai dati generali, e assieme a questi soggetti in qualche modo siamo partiti. Abbiamo attivato un numero verde che è attivo dal 2 di marzo, è attivo alla nostra sede di Asola, e diciamo le cose che si stanno recependo sono molto molto preoccupanti. Cioè, io stesso vengo contattato nella mia azienda, qualcuno recupera addirittura il mio cellulare e mi chiama chiedendomi consigli, raccontandomi la storia della sua vita. Quindi si sta arrivando di tutto e di più. E una cosa vorrei dire e sottolineare: i casi che ci sono stati, che io pochi o tanti, poi ognuno li definisce come vuole, di suicidio, avevano dietro anche altre questioni. Certo. E qua io ho fatto un appello anche la settimana scorsa: in certe situazioni, se noi ci accorgiamo che c'è l'imprenditore che si sta chiudendo in se stesso, che non parla più, dobbiamo capire cosa c'è. E qua diventa importantissimo l'aspetto della famiglia. La famiglia deve essere a supporto, perché molte volte succede questo: la famiglia fa finta di non vedere, l'imprenditore non vuole raccontare che non può più far vivere la famiglia in un modo importante, definiamolo così, per non dire altro. E quindi tutto questo va a finire che si creano dei muri anche all'interno della famiglia stessa. Manca poi qualche cosa che fa scaturire il resto. Quindi ciò che io intendo dire in questa fase è che, diciamo, è una fase di pronto soccorso, è di dare aiuto e supportare i nostri imprenditori attraverso le famiglie, attraverso i conoscenti, gli amici, cioè tutta la rete interna, tutta la rete interna alla famiglia che può essere di supporto a questo. Questa è la cosa più importante di tutte. Poi, torno a ripetere, associazioni di categoria fanno anche questo, però non siamo succursali, degli aspetti del sociale che devono... No, no, no, è chiaro, loro hanno avvertito, come nel vostro caso, ci sia un buco, diciamo così, in questa rete di ultima istanza alla quale bisogna pensare, e secondo me anche bisogna pensare concretamente, mi impegnerò al di là di quello che faccio a questo microfono per vedere come trovare le risorse limitate a livello nazionale per uno strumento di ultima istanza come quello che ha pensato Bortolussi, che ci ha spiegato prima. Naturalmente, ripeto, qui non stiamo parlando solo di artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ma anche del dramma di chi perde il lavoro e non trova un sistema di reimpiego efficiente nel nostro paese, magari avanti negli anni, e per questo si toglie la vita, perché ci sono stati casi e come di questo tipo. Io vi dirò che di tutto questo gran parlare dell'articolo 18, ciò che mi colpisce è quanto poco i miei colleghi si occupino di capire se con il sistema dell'aspice, della nuova indennità di sostegno al reddito per chi perde lavoro, che dovrebbe sostituire a quel punto il meccanismo della cassa in deroga a lungo, perché come giustamente su questo secondo me spiega la Fornero, bisogna distinguere i tempi di razionalizzazione e di ristrutturazione delle imprese rispetto al sostegno al reddito, ma se poi una volta che ci fosse l'ASPI ci sarebbe un sistema efficiente, cioè capace di incrociare domanda e offerta di lavoro dei disoccupati, come in altri paesi si è sempre contestualmente, in occasione di grande riforma del mercato del lavoro, messo in piedi, ristrutturando profondissimamente quello pubblico inefficiente precedente. E nel nostro caso stiamo parlando di un sistema pubblico inefficiente per definizione, visto che passa attraverso di lui la riallocazione solo del 2% del lavoro dei disoccupati, del 2%. Quindi io mi preoccupo poi di quanta poca attenzione prestiamo a questo rispetto alla grande bandiera, all'articolo 18, e se la reintegra debba essere come prioritaria o meno nel caso dei disciplinari, perché a questo ci siamo oggi concentrati da giorni. Non mi pare che sia il grande problema, io che sono liberista, ma non mi pare, detta fuori dai denti, che l'alternativa tra reintegra o formulazione in legge di un criterio prevalente all'indennizzo anche per i disciplinari sia la questione del mercato del lavoro italiano. Sbaglierò. Proprio per questo, comunque, per farvi capire che abbiamo un approccio che si apre a tutto il mondo del lavoro, non solo agli imprenditori, e con noi anche, e di questo molto lo ringrazio perché sto facendo perdere tempo, per così dire, William Pezzetta, che è il segretario generale della filiera CGIL Friuli Venezia Giulia. Quindi stiamo parlando di uno dei settori più bestialmente colpiti dalla crisi in questi anni, e che ancora non vede luce, naturalmente, visto che costruzione edilizia, opere pubbliche, questo è. Buongiorno segretario. Buongiorno. Allora, rispetto a questi temi, cosa si può pensare? Un grande sindacato come il vostro, ma insomma anche gli altri, cosa possono pensare di fare rispetto a lavoratori che, è capitato purtroppo, sono così disperati per non sapere più come tirare avanti che ricorrono a gesti estremi? Certamente questa crisi, questa grave crisi che ha colpito, e in modo particolare, fra le altre cose, anche i settori che la mia categoria segue, sia quello dell'edilizia, dove noi abbiamo una riduzione qua in regione del Friuli del quasi del 15%, e delle imprese, e circa stesso numero degli addetti del lavoro, per cui stiamo parlando di una perdita secca indicativamente negli ultimi 3 anni su 20.000 addetti, circa un 3.000-3.500 addetti hanno perso silenziosamente molte volte il posto del lavoro, ma non meno drammaticamente. Dico silenziosamente perché l'edilizia è una realtà fatta di 3, 4, 5 persone, questo è il numero medio degli addetti per impresa, ed è chiaro che molto spesso per aziende che chiudono con numeri piccoli non fanno la notizia come magari grosso gruppo. Però distruggono naturalmente vita e socialità e radicamenti territoriali. Esatto, però si creano poi ovviamente dei drammi che noi giornalmente qua vediamo, perché avendo a che fare con le persone, le quali molte hanno i loro impegni, chi ha il mutuo, chi ha la famiglia da portare avanti, soprattutto gli ultra quarantenni, e passano in molti casi, e questo è un aspetto nuovo di questa crisi qua, almeno personalmente per quello che vedo io rispetto ad altre cicliche che ci furono, diciamo così, categorie che una volta non erano minimamente interessate, categorie impiegatizie, categorie di chi stava magari anche abbastanza bene, di chi aveva un tenore di vita più che dignitoso, improvvisamente si trova effettivamente con una serie di problematiche che molte volte hanno dei risvolti proprio psicologici, che partono da una frustrazione, un annullamento della propria persona, cioè quasi ritenersi un fallito. magari su problemi che ovviamente sono più grandi della portata della persona stessa, però c'è questo, oltre a problemi proprio concreti, perché poi tutta una serie di impegni e di vita e sul quale molte volte la disperazione insomma è molto pesante. Anche stamattina ho ricevuto delle chiamate di persone che cercano disperatamente un lavoro, chiedendo se magari sappiamo, se conosciamo. È un sottofondo che ancora non è emerso in tutta la grande drammaticità. E io penso che tutti dovremmo occuparci di più, perché io pure non so come fare e mi trovo in maniera crescente veramente, non imbarazzato, mi trovo amareggiato al punto tale da non riuscire poi a identificare in quello, nel dibattito intorno nazionale. Io mi occupo soprattutto di quello, ovviamente, oltre che fare un consulente nei miei servizi di consulenza, ma nel dibattito come giornalistico non trovo i segni di questo. Trovo magari i segni, li ho trovati per 17 anni, della colpa incrociata politica, che non serviva a niente, ma di come in profondo la crisi nel tessuto produttivo e sociale italiano rischi, dopo i 2-3 anni di impatto pesante, di continuare a essere nostra compagna ancora più profonda e assetata di sangue per i prossimi anni, per il tipo di risposta che diamo, cioè per avanzi primari fatti per via fiscale del 5-6% l'anno, perché non vogliamo mettere mano a un disegno intelligente di riorganizzazione profonda del perimetro pubblico, e questo non l'ha fatto la politica dei partiti, ma non lo fa neanche questo governo. Ecco, lì allora io mi allarmo veramente in maniera profondissima. Adesso abbiamo il traffico che è in ritardo, io come sempre mi scuso con i colleghi che curano il servizio. Torniamo per poco, cominciamo con Daniele da Treviso. Prego Daniele. Buongiorno, buongiorno a lei. Io sono un piccolo imprenditore, abbiamo una attività di famiglia da più di 26 anni e devo dire che già da più o meno 10 anni questo governo, questo Stato Italia ci ha fatto passare la voglia di lavorare, perché ci sentiamo veramente dei limoni spremuti ai quali si continua a chiedere succo, ma non si dà nulla in cambio. Noi come Veneto soffriamo tra l'altro questa situazione anomala, che ci sono italiani di A e di B, perché abbiamo due regioni a statuto autonomo che ci contornano, siamo la regione locomotrice, diciamo, di questa Italia e appunto questo governo ci toglie la voglia, infatti, di lavorare. È della peggior cosa, perché noi abbiamo anche attinto a beni personali per rimanere in piedi. E questo non, sì, è giusto fino a un certo punto, è giusto fino a un certo punto, adesso certo. Si sta veramente arrivando a una situazione di crisi totale e noi abbiamo sempre privilegiato i nostri dipendenti, perché senza di loro un'azienda non esiste, e però adesso è arrivato il momento. Bortolussi è forse la persona più adatta e più in gamba, che dovrebbe essere anzi parte integrante di questo governo di tecnici tra virgolette, perché lo so, però io più che dirlo ripeterlo da mesi, mi scuso anche con Giuseppe da Varese, ma avrete capito in questi giorni che poi oramai ci tagliano e ci sfumano, quindi i tecnici hanno l'ordine, sono del tutto incolpevoli, fanno benissimo, la pubblicità è ciò che consente a questa radio di tenere in piedi tutto. Io mi impegno perché l'idea di Bortolussi, tenteremo tecnicamente di capire come farne una cosa nazionale vera. Per il resto non sentitevi soli, chiamate persino qua piuttosto che fare fesserie, non è il caso, la vita è meglio di qualunque stupido senso dell'onore che viene meno, per quanto l'onore di un'impresa, di dare lavoro agli altri, è una delle più belle cose per cui vivere. A domani.